Pino? Ci sono. Perché abbasso qua, vedo che non ti fa battimento che sto usando, sto facendo anche effetti 8. No, ho capito. Spieri Carlino. Fai Fabri. Che sto rispondendo e poi blocco. Anche ti sta facendo un battimento, non riuscivo a sentirti, che sto facendo radio da un'altra parte. Beh. Ho capito. No, se ogni tanto non rispondo vuol dire che mi si faccia un battimento e non ti sento. Che radio stai usando? La solita. Sta uscendo bene. Ma sto ascoltando, ascolta, e l'antenna cosa dove ce l'hai piazzata? Sempre sul tuo posto o l'avevi messa sul, come si chiama, sul tetto vicino a casa? L'avevo messa sulla casa, sull'albero, ce l'ho boh, a 25 metri da terra, una cosa del genere, 20 metri. Nella casa sull'albero è all'ultimo piano. Ho capito. Va bene, è importante che stia andando, ma non ti ho più sentito la radio, adesso in questi giorni ero un po' fermo e adesso sono a casa perché mi devo fare delle cose, quindi stavo facendo delle cose, cioè dovevo rimanere a casa e stavo facendo un po' di radio, quindi magari ero in ascolto qua, ma non ti ho più sentito. Ho capito, non mi interessa più ascoltare qua, parlare, poche volte sto facendo un po' di ascolto da qualche altra parte, capito, non c'entro poco qua, sto più ascoltando. Ho capito, vabbè, ma rientrare ogni tanto a chiacchierare. Buonasera a te, avanti, Fabrizio qua. Ciao Fabri, Luca, ascolta, allora stavo modificando, mi sono comprato un alimentatore switching di quelli a 50 A, mi ha attaccato l'attacco delle bananine. E cosa gli stai facendo? Accende e spegni, io ti lascio la porta. Aspetta un attimo, c'è un tuo battimento, aspetta un attimino, riprendo qua un attimo. Sentirà la ventolina, avanti. Sì, e quindi? Ok, no, niente, adesso ho fatto la ventola. Mi devi dire se ho alternata, vai. No, non ce n'è alternata. Ok, apposta allora, ha fatto un ottimo lavoro. Ciao Riccardino, come stai? Bene Luca, non ti ho più sentito neanche a te. Io già sto entrando, dai, ogni tanto così. Ma ci sono comunque, dai. Ci sono. Ho capito. No, al massimo sto guardando qualche volta le foto del cane, quando le metti e basta. Poi, volta Fabrizio, non ho più molta voglia adesso di entrare, sto facendo ascolto. Vabbè, è uguale, dai. Io sono un po' impegnato, quindi tutta la mattina, vabbè, ho fatto danno, perché ho fatto i buchi per mettere il rosso nero, dai, diciamo, l'attacco delle bananine, e bucando ho bucato anche il condensatore. Allora ho dovuto tutto rismontare e cambiare il condensatore, quello grande, quello da 250 volt, e 680 microfarad. E meno male che ce l'avevo dall'altro alimentatore. Poi, come sono accorto, ho rovinato anche il condensatore, quello piccolino da 2 microfarad, di coso era 50 volt. Anche quello l'ho rovinato, un casino. Tutta la mattina per mettere due attacchi di bananine, vabbè. Ma cos'è? Uno switching, ho capito, oppure uno di quelli stabilizzati? No, switching, stabilizzato lo sto usando adesso. Ho capito, sì, no, già sta andando bene, che sta dritto lo stesso, neanche qua sta dando alternata, già va bene. Andava, dai, riprendetela, riprendi Fabri. Ehi, stabilizzati sono tutti gli alimentatori, stabilizzati sono gli alimentatori che usiamo noi nella radio, sono tutti stabilizzati, che siano switches o che siano i tradizionali col trasformatore tradizionale, capito? Vabbè, volevo intendere quelli CEP, se era uno di quelli CEP oppure quello che ne ho visto tanti che ce l'hanno, quello della Diamond, che ci fanno un sacco di modifiche, mi sembra, che c'è infatti anche sul sito dell'ARI come su progetti. Ho capito, però inizia a capire cos'è una corrente livellata, raddrizzata livellata, è una corrente alternata, quindi sono tutte in corrente continua, escono, quindi una volta invece di avere il trasformatore c'è questo switch, una nuova tecnologia che non c'è agenda, me lo io ancora, ogni tanto ne sto riparando qualcuno, ogni volta mi perdo in questi cavo di switch. E comunque alla fine ti dà una corrente, tu la corrente la devi, anzi a monte queste vengono raddrizzate col ponte e poi vengono livellati, capito? Tutti così sono, non c'è differenza, ricorda. Ho capito. Poi uno è con la linea col trasformatore normale, tradizionale, l'altro invece sono gli switch, che devono switchare per capirci, c'è la parola stessa. Ma se te lo posso chiedere, ma che c'è affluenza adesso dove stavi provando a parlare? Sì, adesso quello collegato, adesso ho collegato il Portogallo, il Sudafrica, il Brasile, questi tre collegamenti adesso, perché come mi è cambiato tutto stavo iniziando a fare con gli Stati Uniti, l'ho collegato in 15 metri. Ho capito. Meglio, c'è sempre movimento, per quanto c'è chiusa la propagazione, comunque c'è sempre movimento nelle varie bande, ovviamente. Vabbè, ma qui lo sapevo alla fine, questo diciamo stabilizzato forse quello a coso, a quelli pesanti a trasformatore. Stabilizzato poi. Aspetta, perché mi stai richiamando questo? Aspetta un attimino, io lo richiamo. Aspetta, se per caso non mi senti che sto rispondendo. Stavo dicendo, no, stabilizzato per un'altra cosa ancora, diciamo, se qui vogliamo essere precisi, capito? Non c'entra niente, perché tu la corrente la devi raddrizzare e livellare, capito? Con il ponte di diodi la raddrizzi e con una serie di condensatori e poi innanzi anche la tensione la livelli, diciamo così brutalmente e molto semplicemente. Poi ci sono circuiti un po' più complessi, proprio perché poi se l'analizzi con l'oscilloscopio la vedi cosa succede, però questo qui. Stabilizzati possono essere tutti e due, nel senso che stai stabilizzando la corrente a 13,8 per esempio, lì deve rimanere, a prescindere se la tensione in rete cambia leggermente, quella è la qualità anche dell'alimentatore, ma quello può essere sia uno switching che un trasformatore, diciamo trasformatore anche l'altro, cioè, ma tradizionale. Ho capito. Aggiungamento, capito. Vabbè, è sempre meglio chiare esperienza come te, bisogna. Forse è una cosa diversa, dai. Comunque secondo te è migliore quello switching o l'altro? Guarda, dipende da come sono costruiti, io gli switching la verità li uso. Adesso dopo quando rifarò la stazione probabilmente cercherò di fare tutto, c'è che cosa dipende dalla qualità anche dell'alimentatore, perché bisognerebbe analizzarli, perché uno lo paghi penso 30 euro e alcuni te li fanno, lascia perdere quelli lì, ma alcuni anche te li fanno pagare un sacco di soldi, perché comunque in stazione radio basta un piccolo, tipo, se tu lo analizzi con ti renderei conto che per esempio per alcune bande magari vanno bene, per altre potrebbero creare problemi, diciamo che non posso dire, io non ho molta esperienza Luca in tal senso, però comunque col fatto che stanno switchando, capito, potrebbero creare problemi, infatti ce ne sono alcuni che con un sacco di circuitini per fare, ma sono complicati, io non so nemmeno la verità, non mi sono mai addentrato molto io su questa storia qua, non mi è mai interessato molto, però comunque ovviamente se c'hai un bel alimentatore grosso e che sono grossi e pesano di una certa marca, di una certa qualità, probabilmente è più difficile che tu magari in radio ti può creare del noise, ti può creare comunque chiamano QRM, mentre uno switch potrebbe anche capitare, però ci sono anche i switch di qualità che vendono e a quel punto bisognerebbe analizzarlo con la strumentazione per vedere se veramente è come dico, però non è che a priori sono peggiori. Praticamente mi faccio al rientro, Fabio, faccio a QRM, poi ho dovuto comprare nuovo per quel motivo lì. Questo qua che da 50, dicono che da 50 poi non lo so, insomma come misurarlo, vabbè, questo non me lo fa. Sì, perché poi bisogna vedere come filtrata anche la corrente, capito? Quello è importante. Però guarda che per la 27, per quello che usate voi, quegli switching vanno più che bene, perché tu uno switching a 50 ampere quanto lo puoi pagare? Quanto lo pagherai? 30 euro, 25 euro, 30 euro con la spedizione lo pagherai. Quindi voglio dire, alla fine, facciamo 50 ampere sotto, cioè ne prendi uno da 20 ampere, che lo paghi 10, 12, magari ti arriva a 17, 20 euro a casa, magari ne compri due e con 30 euro ne hai comprato due, capito? Ma c'hai 20 ampere, e per la 27 va più che bene. Ma io guardo adesso per dirti, c'è uno switching e ce l'ho collegato, questo qua come ce l'ho collegato, questa radio qua, ecco, questa radio penso c'ho, ne ho due collegati, tre, ce ne ho tre adesso, c'è di switching, in 24 volt che li uso per l'antenna, che in 12 volt, adesso questo qua è collegato allo switching per esempio. Ripeto, dicevo, questo qua da 20 che faceva quel difetto, l'ho messo da 30, da 50, mi ha dato conferma che non fa alternata, va bene. Ma non ce ne sarebbe altro, sono belli livellati, da quella polizia te lo analizzo, non è quello il problema. Il problema è che quando vai a utilizzarlo magari che stai facendo in maniera un po' più professionale con alcune radio, capito? Allora forse creerebbero delle, ma io la verità questa stazione li sto utilizzando, non ho mai riscontrato nessun problema, non sono degli switch di altissima qualità, capito? A parte le radio aperte magari funzionano a 220, però voglio dire le altre radio, quelle che funzionano, io le alimento con questi, costano poco, ti si bruciano in un attimo, costavano molti finali, ho comprato un po' dalla Cina e ne ho riparato anche qualcuno ogni tanto, tanto è sempre su tutte cose che fanno. E quindi voglio dire, vanno bene, io poi li uso qua, io non me ne sono mai reso conto, ma anche perché tu in città, se consideri che sei in mezzo macchine, luci, ormai ci sono switching, ci sono tutti i trasformatori dei telefoni, tutte le luci a LED, tutte queste minchiate, c'hai un noise di fondo, che ormai, voglio dire, tu anche se attacchi questa roba qua, non te ne rendi nemmeno conto, perché comunque ce l'hai sempre questo rumore, quando vai a accendere le radio, quindi il diverso magari se sei in campagna isolato, allora magari lì può essere che secondo me potresti accorgerti di qualcosa, però per esempio quello che ti dà problemi a te, quello che ti dava problemi ha problemi, sicuramente se lo attacchiamo all'analizzatore, all'oscilloscopio, faccio vedere che magari l'onda è sporca, capito? Qualche sta uscendo sporco, ti faccio vedere certo cosa gli sta succedendo, tu, con il tester non lo vedi, ma con l'oscilloscopio lo vedi cosa gli sta succedendo e vedi che ci sono magari delle componenti di alternata sta dando, e alternata non deve dare un alimentatore, quando va qualche componente di alternata ti fa i disturbi. Ah, ecco. Vabbè, diciamo che è un po' rumoroso, rumoroso, oddio, si sente un po'. Andiamo back, che sono le 3:10, Riccardino. Riccardino è sparito. Riccardo è sparito, sì, dove si è caduto. Ascolta Fabri, qua c'è l'adesivo della marchetta OCE, ma in Cina glielo devo lasciare quello. Lascialo ovviamente, che ho sentito che a voi se vengono a fare un controllo vi controllo anche l'alimentatore che c'è marcato OCE, siamo arrivati lì di... perché teoricamente tutti gli apparecchi che vengono venduti devono essere marcati OCE. Sì, quello lascialo che è meglio, non sa mai, a quelle ultime cose che ho sentito lo raccontare da voi. Ma io l'ho sentito, io non sapevo neanche, pensato, per esempio c'ho il Mobico che non è marchiato OCE, c'ho questo che sto usando adesso è marchiato OCE. Però a me sembra strano questa cosa qua, se ce l'avevi da prima, un po' come una macchina può girare, deve avere determinate caratteristiche, no? Però ci sono mezzi turici che non rientrano per niente come inquinamento e come tutto, ma comunque devono rientrare nei parametri degli anni che è stata costruita, quindi mi sembra strano questa storia che dicono, se no sarebbe tutta da contestare, però può darsi sia così, non lo so. Vabbè, comunque per non sbagliare prendi un paio di bullini, te li compri e li metti sopra, marcato c'è. No, vabbè, già c'è, l'ho dovuto smontare, certo che ho fatto danno. Comunque l'ho provato, gli ho messo il tester, l'ho portato a 13,8. No, sai perché Fabri? Perché giù dalla 25 praticamente mi dà la scossa. E sto usando l'alimentatore del computer, quello che è a 12 volt, capito? Mi dà la scossa, quando tocco l'antenna a fuori, tocco la ringhiera, mi dà la scossa. Non so se è dovuto dall'alimentatore o è dovuto dall'impianto elettrico, boh. cazzo, dall'impianto elettrico Luca, cazzo, c'hai una dispersione impressionante, capito? E che non hai salvavita tu a casa, se no, che tu non hai messo a terra, se avevi messo a terra un salvavita, vedi cosa ti scattava tutto, anzi, sarebbe da controllare. È la differenza di potenziale che hai, capito? E quindi tra la messa a terra, che non hai sicuramente, perché non scattava tutto, quello c'hai qualcosa che va in dispersione, l'impianto elettrico, tranquillo. No, non qua a casa mia, a casa della VTC, sì, anche io l'ho pensato. Ah, purtroppo l'impianto vecchio ancora, c'ha quei cavi rigidi in rame, che ci vuole un coso, come si chiama, sono un bel duri da piegare. Ho capito, l'impianto vecchio, se è tutto in dispersione quell'impianto, per carità. Perché le prese, l'isolamento delle prese, di tutto, non ha messo a terra, capito? Quindi non avendo messo a terra, ovviamente se deve scaricare, ti sta scaricando da qualche parte, tutto. Tu consiglio, chissà com'è, ma non posso immaginare, no, non ti preoccupare, non è un alimentatore non è, è proprio il... L'impianto vecchio, ho capito, l'impianto vecchio. Vabbè, io lì per lì, ascolta, un'altra domanda, Fabri, la faccio da ignorante, perché alla fine. Allora, io sto usando giù un alimentatore da 12 volt, quindi gli alimentatori del computer, non va bene per il baracchino, giusto? E perché non va bene? No, ti sto facendo una domanda, va bene o non va bene? E certo che va bene, e hanno anche un bel po' di ampere quelli alcuni, dipende dal modello. Infatti credo che il baracchino non si sieda. Ma perché non si siede? In banda si siede. In banda perché ti dà più watt, quindi probabilmente a 5 ampere, 6 ampere non di più. Vabbè, io comunque pensavo fosse dovuto dalla... come si chiama? Dall'alimentatore. Guarda, probabilmente lascia perdere che non hanno moltissimi ampere, però probabilmente è più serio quell'alimentatore che deve andare ad alimentare una scheda madre di un computer che quelli che compriamo noi così a stracco baratto, quelli di switch, capito? E che probabilmente non arrivano a 13,8, bisogna magari fare qualche piccola modifica, ma comunque vanno bene, quelli sì che sono, comunque se quello l'attacco qua, lo faccio quella, penso che sia bella livellata la corrente. Ma io pensavo che fosse dovuto da quello, invece no, vabbè. Comunque sono sicuro adesso che ho un alimentatore con tanti ampere. Sai cosa volevo fare? Volevo attaccare uno strumentino, penso che lo vendano Fabri, però non so proprio da che parte iniziare ad attaccarlo, uno strumentino che mi misuri gli ampere. Guarda, vendono quegli strumentini che fanno volt e ampere, dalla Cina costano poco, ti colleghi quello ai capi, lo fai il collegamento, allora ci sarà, per vedere i volt non c'è problema perché lo colleghi in maniera diretta, ok? Positivo e negativo, positivo, mentre per vedere l'amperaggio guardati lo schemino, sicuramente entrerà il positivo, poi uscirà, lo riprendi, perché dipende da come, non so, devi guardare lo schemino, comunque devi misurare gli ampere, quindi deve passare la corrente all'interno dello strumento. Quindi entra un positivo, poi lo riprenderà, vabbè, comunque guardati, io uno schemino sempre, sono tre fili, e quello lì riesci a fare, non so se io ogni tanto li compro, credo, non sono tutto quello, l'altro giorno sono andato a comprare le batterie del telecomando, poi io sono andato, ieri mettendo a posto ho trovato una scatoletta che le avevo ordinate, una decina di quelle batterie per i telecomandi, quelle le 20-25 mi sembra, per dirti no, e quindi tu fai così, comprati quegli strumentini, che magari lo, però fanno arrivare dalla Cina, magari lo paghi 6-7 euro, comprese le spedizioni, e ci metti un po' ad arrivare, quando arriva glielo colleghi. Ma infatti, volevo fare una cosa fatta bene. A voi a 50 ampere c'è anche per i porci. Ehi, ma quando... Ma infatti quando comprate, che vi sento, comprate alimentatori questi della Nissei 280 euro che costano un fracasso di soldi, ma alla fine io ce l'ho qua uno collegato, anzi era buttato, l'ho preso e l'ho riparato, era era, c'avevo buttato, l'ho trovato su e te qua, si era rotto, poi non l'avevo riparato in bare perché c'erano altri problemi, poi c'erano i finali, che costavano più i finali alla fine di cosa, però ho detto, sono andato e li ho comprati, li avevo comprati, sono arrivati dopo un mese un po' di finali, non so nemmeno più dove sono, li avevo pagato una fesseria alla Cina, li ho cambiati e ne avevo riparato un po', capito, di questi qua, e questo in bare uno, anche il cardino, quello che c'era il cardino, mi sembra che avevo riparato lo stesso, non ricordo più, però vanno bene, per quello che usate voi, comprati quelli da 50 ampere, anche esagerato, prenditi quelli da 20 ampere, vanno più che bene. Sì, ma allora ripeto, questo non c'avevo prima da 20 ampere, ma mi stava facendo quel problema dell'alternata. Sì, però perché quello è un problema, proprio che c'è qualche condensatore mezzo scoppiato. Guarda che ci sono, se non sbaglio, quelli da 30 ampere vendono, anche quelli sono in maniera, costano anche meno, quelli secondo me è l'ideale. Voglio dire, o devi collegare un lineare, allora sì, però per i baracchini, se devi usare una radio HF anche un 140, questa roba lì, quelli da 20-30 ampere vanno più che bene, capito? Quelli e visi non costano niente, se li cercate vi mettete d'accordo, pagate una spedizione e ne fate arrivare una decina, l'avevo fatto io tempo fa, l'avevo fatto qua, ne avevamo fatto arrivare una quintina mi pare, qualcosa del genere, ce li avevamo divisi, capito? Ne avevamo pagati così, tre io, tre tu, abbiamo fatto una cosa, ma una ventina forse ne è arrivata, qualche anno fa. Vabbè, già sono comodi comunque, dai, si può usare anche da, come un alimentatore da banco, provare, sai, lo puoi portare a 12, al massimo 15 volte, giusto, se non sbaglio. A te che sono al telefono, Luca? Via, Fabi. Che era al telefono, stavo telefonando, cioè mi hanno chiamato. Mi sto smontando un lettore che mi hanno dato, un lettore DVD, di quelli esterni, da attaccare al computer. So che gli hanno rotto l'attacco, c'è l'attacco tipo quello del telefono, dai, però quello poco più grande. Ho capito. Mi metto qua, cioè sono qua, sono sui 10 in ascolto, se volete chiamare dopo, tanto io adesso continuo a fare un po' di collegamenti in 15 metri, più tardi mi deve chiamare questo amico che dobbiamo finire, che ce l'ho configurato, ma c'è un sacco di counter che non riesco a fare perché sono in CV doppio e quindi mi devo piazzare due cose per fare qualche collegamento, devo comprare il programma, solo che va comprato questo perché va solo in ricezione, quindi dopo devo usare un altro programma, troppo macchinoso, e c'è questo amico che è molto bravo in queste cose, quindi poi più tardi lo vediamo insieme, così lo acquistiamo e lui ce l'ha già e vediamo un attimino di farlo andare. Fabri, va benissimo, anche io sono qua in ascolto, dai, va bene, nel caso se non ci sentiamo vuol dire che tanto io tra le 4 esco. Comunque sono qua, ciao, Riccardo è sparito. Via, ciao Fabri, a dopo. Ciao. Passa a poco. Un e tre. Un e due. Al 10. Al 10, un e uno al 10. 1 e 1, ma così muove. Questo non è 1. È meno di 1 e 1. Allora, c'è qualcuno al 10 per un controllo? Prova. Fabrizio, ci sei? Hola. Fabrizio, ci sei? Sì, 1, 2, 3, prova radio, prova. Claudio, ci sei? 1, 2, 3, prova. Andiamo, Gabriele. Buca. Buca. Eccolo, ci sono urgenze. Eia, paduli. Oh, yeah. No, Luca, stavo chiamando. Abbiamo registrato la stazionale, volevo vedere se era migliorato. E invece? Non ci ha fatto sentire. Oh, Clark. Poi. Ma un po'? Sì, oltre 9.10, quasi 9 più 15, sì. Non tu che l'antenna vecchia mi tieni seguo le mani, Andiamo, andiamo, cacca. Ehi, allora, va bene. Sì, va bene, lo Smith prima non mi saliva così con l'altro alimentatore, con questo sale di più, forse perché stavo dicendo una stronzata, allora è 12 volte, questo qua è 13,8. Infatti, vai molto bene, stazione ce ne hai 1 e 2, quindi no, tocca, c'è. Ciao, Antonio. Ehi, ciao, 7 e 2. Ehi, ehi, va bene, va bene. No, una bomba non ci aveva, ma da solo non ce la faceva tarare, sono sceso io, l'abbiamo tarata. 1 e 2, più di quello non si può fare perché è molto bassa, è in mezzo all'albero, però meglio di 1 e 7. Ah, Antonio, che riserva. Ciao, lui, vabbè, 1 e 7 già sono altine, già erano altine. No, 1 e 2, va bene. Nel 45 c'è un 3, quindi ottimo per la truppa, già va bene. E vabbè, intanto dove vuoi andare? Fare quattro chiacchiere. Ehi, ma quattro, bro. Crociata Marcello. Non ce l'ho a fare via Grazia Doretta quando stavo rientrando. Marcello, che già sono un giorno che non lo vedo. No, ci vediamo spesso. Così capita. Tra un incrocio e l'altro che ci vediamo, dai. Poi vabbè, su WhatsApp, anche lui è tantio a mandare un saluto ogni tanto, invece te lo fa dentro. Vabbè. Io ogni tanto lo vedevo prima quando andavo alla faccia la mattina a fare colazione da Maltaglia. Poi non ci sono più passato e non l'ho più visto. È sopra lì c'è qua. Mi sono andato oggi in via Pascoli, sono passato. La sera e stamattina, perché stamattina dovevo appuntamento con Vannino, mi doveva dare la scatola del DS780 che era rimasta a casa sua. Capito? E quindi sono andato a prendere, ci siamo visti in via Pascoli per non farlo venire qua. Se no sono anni che non vado in quella strada io. Io prima ci passavo spesso, dopo da quando sono sempre qua, ci sempre lavorando fuori, e chi ci va mai a quell'ora? Vabbè. È bello, Garie. Adesso che è arrivata la ragazza che fa i denti. E tu, a tutto a posto? Tutto a posto. Così, Sì, vabbè. L'importante è che ci vada avanti. Poi ci abbia il culo. Io fa vedere i bisciamenti, che io già c'ho mia moglie che non fa bene. Ilaria che è a casa una settimana, capito? Perché è inutile che stanno, ci hanno fatto i turni, è inutile stare in quattro quando non mi fai nulla. Perciò tutto perdita, non c'è niente di guadagno attorno. Questo qui ho solo soldi che escono, a entrare pochi. Per quello, E allora, domani mattina ho chiamato un cognato, io cioè domani mattina vado a lavorare, che abbiamo trasloccato un magazzino, quindi domani mattina l'ho forniciato, l'ho abituato, l'ho messo a posto, il muratore, adesso domani mattina vado a fare una pulita, sistema le mobili, le scrivanie e balle varie. Non manco mai sono impegnato domani, se no. Anche domani è grattarmi le balle a casa. Perché poi ti viene la paranoia? Vabbè, magari mi riposo, ma dopo che ti riposi 2-3 ore cosa fai? No, non è una questione di 2-3 ore, no, tu. Qua c'è la vita sedentaria proprio, cioè no, io già esco poco, sono diventato molto, molto pantofolaio. In più il COVID ti costringe a non frequentare determinate zone, a non allontanarti più di tanto, alla fine ti ci viene le balle. Vabbè, cosa puoi fare? Io molte volte ci penso. Anche giusto che sia così, poi succede qualche cosa che ti contagi, o che ti contagiano, o che succede qualcosa. Come se sia a casa, eh? Quando c'è questa cosa, sentite ieri ha intervistato Ambrosio, Paolo Ambrosio, che ha raccontato una cosa allucinante, credetemi che è una cosa allucinante. Una cosa allucinante, ha detto ieri, di suo virus. Io lo so, vabbè, cerchiamo di capire la parola. Sono al collasso. Ehi, ehi, ma la moglie di Franco, Detta, sempre la sorella, allora Lucia. Ma era tanto tempo che era ambulatorio. Ah, per la ferrosa, non sta più praticando, e vedi, lì secondo me è ancora più pericoloso, perché lì ci sono, fanno le, come si dice, prelievi, no? No, ma ormai non è sto bloccato, non faccio più nulla, ci sono quanti di ambulatori. Ma è sto bloccato, ormai tutte le parti dell'ospedale sono delle tante piccole, biologia, medicina, quello, la che schifo, mamma mia, Roma è qua, è un bel casino, vabbè, speriamo che cambi un po' la situazione, ma stavo seguendo il TG, dice che praticamente ho visto la statistica, la cosa, noi siamo a zona verde ancora, quindi da noi in Sardegna non c'è il lockdown, perché stanno facendo il lockdown regione per regione, capito? Perciò per il momento ci salviamo, se cerchiamo di capire questa cosa. E adesso stasera Conte dirà qualche cosa, e poi sì, la Sardegna comunque ancora c'ha il cuore di passo, la Basilicata. Però, ripeto, se continuiamo di questo passo, un salto da 0 a 20 è immediato. E un santo, questo appunto, come ti dicevo, sta da noi. Cercare di capire, di fare le cose fatte bene, di tutelarci, di tutelare gli altri, insomma, di usare un po' la testa, non i piedi, capito? Solo così ci possiamo salvare, se no ti do caffè a casa. Quelle sono che bisogna attaccarsi, capito? Quelle bisogna attaccarsi, sono queste compagnie così, se invece stai a casa o frequenti sempre le stesse persone, penso che non succeda niente, però come dici tu c'è questa cosa di fa brinca brinca, domani sei qui, dopo domani sei là, e anche la frequentazione diventa poi in automatico un contagio totale. Avanti Pippi. Buonasera. Oh, ma papà, buonasera. Allora, come andiamo? E come andiamo noi? E noi ci andiamo bene. Beh, non momento andiamo, poi, quando non vorremmo più andare, Antonè, ci fermeremo. O ci facciamo spingere. Diciamo che va, che ci lasciano lavorare, ci lasciano guadagnare la pagnotta, va. E poi non lo so. Vabbè, quello c'è vero. Se chiudono convenienti è fottuta qua Sassari. Stavo già pensando tutti quanti di cosa succederà se dovesse venire in mente di chiudere a campus della Mela Verde. A quello ancora bisogna stare attenti, sono 20 gira di capo già raggiunto. Chi se l'ha fatto mai nulla, doveva fare tutto via Milano. E da quando è entrato che aveva detto ci facciamo la pista ciclabile, mettiamo tutto in sesto, e tutto buttato lì da quando è entrato a adesso. Non ha mai fatto l'appalto, figurati, tutto bloccato. Claudio già se li sta guardando qui tu, mi gira il giretto che se fa vedere un camion, lo prende e se li vende. Pompo! Dimmi! Ma mi senti, sì? 9 più 10. 9 e 10? Ehi, a radio 5. Ok, no. No, ma sto lottando con questo alimentatore, sta andando ancora meglio. Boh. Capasco, ti volevo chiedere una cosa, tu che sei informato. Quell'apparato che stavano vendendo su internet, c'è cioè un 50 euro, questa Turnetco, che è lì ai punti, qualcuno l'ha visitato dentro oppure l'ha lasciato così com'era per sapere che è bruciato? Ma la domanda la stai facendo a me? Eia. E cosa ne so, Gui? Boh, sono con chi la sta vendendo, boh. Ma Antonio, di quella signora che c'è, no? Quello di lasciato un ecco di quella signora. Eia, quello di Monica, per esattezza. È bruciato, lascia per lì. Lascia perdere che è tutto bruciato, ma cosa... Ma fate mal immaginato. È tutto scacciavizzato, Antonio. Tutto scacciavizzato, e allora si va a tocca in culo. Se non deve avrei indagato a 150 euro. Sarei andato la notte per non vedermi nessuno a prenderlo. Mi hanno informato subito di non prenderlo che era tutto scacciavettato. È tutto messo male, capito? Anche fermamente, tutto graffiato, tutto molto male. Non hai visto le fotografie? No, veramente non ci ho fatto caso, era più che altro per sistemarlo era. Ma se non, se ne cava piedi, manco lo tocco se la piglia in culo. Ha già sistemato quello che gli ha stato in mano prima di te. Ah, e allora già è a posto, allora, è già compreso. Ma non hanno già ricomparato una doccia, spendere 150 euro per che cosa? Per pure ripararlo, spendere ancora altri soldi. Ma lascialo stare dov'è. Lascia stare dov'è, lascia, che già va bene così. Anche lo rimbombo della stanza, tu. Metà della roba, c'è la scrivania vuota, mi ha già mandato la foto a Luca, è vuota. Hai fatto bene, hai tanto, ma non trattare. Cosa ne fai? A me 7500 sono uscite tutte le righine, proprio perché non lo stavo usando più, capito? Sono esauriti proprio tutta la parte dei condensatori del display. Quindi via, fuori dalle balle, l'820H, il 400, l'altro, tutto girato, tutto quello che ho potuto dare ho dato, capito, la roba vecchia praticamente, quella insomma un po' messa meglio ma la sono tenuta. Beh, poi più là, magari ti chiede la scrittura che era più recente, no? Tieni quella. No, Clara, io sono entrato giusto a fare una prova, altro tu mi senti bene? Dove sei? A casa mia. Sulla monte, che arrivano la bomboletta qua, è benissimo. Io come sono di segnale? Sì, quasi 9 più 20, vabbè, così, però. Tu lo stesso, dai, sei quasi sul più, le più 30. Vabbè, dai, che arriva stamattina, io mi aspetto, ci sentiamo troppo. Ma io sono tu. Abbiamo la stessa antenna, ma tu l'hai piazzata su. Vabbè, tra volte se ti serviva una mano non c'erano problemi, vabbè, comunque bravo, hai fatto tutto da solo, andava. Lo sai come sono solitari. Già non fa male, dai, ci sentiamo dopo, clan nel caso, dai, ciao. Siamo di zigazzita, io in tiro, ghi, attacca solo malacchino, a dopo, ciao. Ciao, Lugorie, ma infatti io ho fatto due Luca, per darmi una mano, che però non ho fatto loro, io non ho giocato nulla, quelli del direttivo. E poi sfruttamente me l'ho fatto io da solo, mi sono messo la mano qua dove c'era il sistema delle direttive, che la qualificazione è molto più robusta, mi ho sfruttato un'altra antenna da un'altra parte, capito? Già va bene, avanti Anto, poi mi dici se mi stai ascoltando bene o Anto, vai Antone. Mi hanno regalato due. Sono due portatili VU, non VU, uno che è Femalini e un apparato mobile di quelli cinesi. www.898 si chiama. Poi se ti dico il nome ce la perde, se glielo sai come si. E funziona benissimo. L'ho dato ieri, cioè il BP quando parli, Rettoni, PMR, è bellissimo, c'è un bel display, la verità, è bellino. www.arrangiadidu, sì, Antonio, già va bene, portatili ne ho regalato due io, ma non portatili due cattio, portatili due books. Regalati, capito? Ne ho altre tre che sono vegetale, capito? Sistema vegetale. Avanti, Anton, mi stai ascoltando bene, sì? Sì, sì, grazie. Con la modulazione è buona, ma cazzo, che è un po' vibrante, ma tremolosa. Vuol dire che è troppo forte? Va bene, vai. No, questo è l'altra radio. Dopo faccio andare un po' 4.30, che è un po' di... è acceso, è in 40 metri. Non so se... no, c'è l'antenna attaccata. Comunque è acceso. E dopo l'attacco un po' là, faccio girare. Va bene, va bene. Uscì, Anto, è così. In definitiva, come dice Franco California, è così. Bisogna tenere le cose... quelle poche cose che ti servono e il resto, se ci bucate buco là che borra, e invece la terza volta mica lo metto a posto, alla buona, a pigliarlo senza valvoli, perché essendo un valvolare se non lo usi chiaramente si sciolgono, e loro messo il tuo armadio, vai, gambe le balle, barragione, non ci bucate tutto, non è più nulla. I valvolari, Ma infatti, lasciate le cose che mi servono, dai, basta, che va bene, gappa gappa. E quindi Antonio, sei preoccupato, già non chiudono, siamo ancora in zona verde noi, non chiudono in Sardegna, Sardegna, Basilicata, siamo, non siamo così messi male, certo non è che dobbiamo cantare vittoria, ma comunque rispetto agli altre regioni, minchia. Casino, più che altro, sai cosa mi dà fastidio a me? Fare la fila lì al supermercato per 4-5 teste di chicchia, cazzo, che si fanno la spesa per un mese e mezzo. Quello mi rompe le balle, più che altro. Perché l'altro giorno quando sono andato, cazzo, però ho abitato 5-6 persone fuori, no, hai giusto, no, ti viene il nervoso, se, vabbè, siamo ancora che il tempo è mite, però se ti trovi, cazzo, con un freddo cane, che sta piovendo, ti prendi l'acqua addosso, ti prendi la polmonite, manco ti la bizzi, a aspettare fuori, capito? Oggi sono andato, ho messo le 3.4 m, meno male non c'era nessuno, meno male, cazzo. Sono entrato dentro, c'erano 4-5 persone o di più, sono di solito lì, sabato e domenica non si può manco entrare, da quanta gente c'è, tutta assemblata, cazzo, specialmente nelle patto suggerate, tutti lì si mettono, cazzo, col cavello uno da parte, uno dall'altra, vai a passare e vedi se mezz'ora. Tu spingi Antonio, appoggi e spingi, vero Antonio? Che cosa bisogna fare? No, io quando vado me la faccio un po' di spesa, non c'ho cugnati a nei chiti, Antonio, se no si vede la baranuzza, poi non c'ho neanche il tempo, quando vado mi faccio la spesa brutta la settimana e ciccia, poi chiaramente, sporadicamente, se mi serve qualche cosa, già c'ho, sono già sì, e torno a casa. Ma qui è una cosa allucinante, capito? Qua proprio... e sono via Milano, sì, la carità. Anzi, però se via Milano ce n'è di meno di gente. Però qua, quando spiedi qui, è una... troppa, capito? Tutta gente di Usilo, capito? Tutti i pastorelli vengono qua, si fanno la spesa per un mese, si fanno la scorta, capito? E quindi devi stare ad aspettare, capito, almeno mezz'ora, tre quarti d'ora, o le casse sono lente, a posto di mettere, per dire, meno un sacco di gente che c'è, forse da aprirne 3 o 4, ne aprono solamente 2, forse anche 3, perché la maggior parte si vanno o la pausa a pranzo, se vai a mezzogiorno, se no li vedi che si pigliano il caffè, o che si mettono a contare i soldi, capito? Non sto a prendere niente, quello che hanno riaperto sicura che l'hanno sistemato. Quello già è l'arco, ha voglia. E dove è andato? No, loro sì che prima era un gabinetto che non c'entravo neanche molto, di fronte a Mauro. Ah, sì. Ah, l'hanno ingrandito, l'hanno messo a posto. L'hanno ingrandito, e quindi rimonti dentro. C'è che rimanca le dinari, c'è un buco. Ma se lo vedi, guarda, è una cosa spettacolare, c'è una pulizia, un ordine. Bello, veramente bello. Oh, via. Oh yeah. scusa, sono riposato niente, sono andato da Luca alle 4. Quello di Mura, anche di via Venezia giù, rispetto a questo di qua, non ha niente a che fare. Questo di qua, di via Carafucci, è molto disordinato, perché ero su in Italia. Invece Mura ci tiene moltissimo all'ordine, alla pulizia, capito? Viaggiano diversamente. Beh, chiaramente ognuno viaggia meglio rispetto all'altro, perché comunque c'è anche la clientela. Infatti molti di qua del rione dei Carbonazzi, quando andavamo qua a Carbonazzi, stiamo andando tutti via Venezia, perlomeno io vado via Venezia, non ci vado qua via Carafucci, capite? Perché Mura è Sassarese, Ghiti non sono Sassarese, Ghiti sono continentale, mi scende dal gusto. No, io vado lì, vado, sono da Predanieta, poi di fronte ci fanno tutti quello sciampo, faccio quelle cose lì, dorate, le ascelle, lì, dorate, tutta la roba che mi serve per una settimana, per 10 giorni ho fatto lì, sciampo, faccio qualche frase, ho fatto frase, poi c'è un po' qualche cosa da comprare durante la settimana, ho lasciato qui a casa. No, ma anche io per rispondere a Antonello, chiaro che non vai a farti la spesa per tutto il mese, Antonello, però anche noi la facciamo settimanalmente, noi facciamo l'elenco di quello che serve e poi si va e si fa per tutta la settimana, carne, pesce, chiaramente congelato, la carne no, la prende in macelleria, l'unico pareggio è garrello lo spidino, insomma, frutta, verdura, pasta, pelati, cioè tutto quello che serve lo prendi per tutta la settimana, capito? E poi se manca qualche cosettina, come ha detto Antonio, si va e si compra, ma non è un problema quello. Vabbè, riprendi Antonio. La carne la prego, ma la prego questa, la prendo alla Cope che la prendo, e che costa un bel poco. Mette il cavallo e le fettine normali. Adesso ho visto l'agnello stasera, ma non ho guardato il prezzo. Visto che c'è l'agnello, c'è, senz'altro sarà costa poco. Adesso spincazzo, l'altra volta costava 5 euro. Gli ho detto, no, non saranno sotto. Sono andato alla Copec e mi sono pigliato la carne alla Copec. Tu mangi la fettina del cavallo, prendi la forchetta e tagli con la forchetta. Hai capito? Mobile, anche perché si mola senza lenti, già lo sai anche tu. Quindi devo tagliargliela piano piano e così almeno la inguia, se no quel tipo di carne che c'ha lo spi sembra cavallo imbizzarrito, sembra. Prima di ammazzarlo evidentemente ti fanno un come si chiama. No, non è migliore carne alla cobra che carne, non me la fatti un bel. C'è una macelleria nella piazzetta, lavoratore, la vende, la prendo lì. Mi tratta bene, la carne è buona, capito? Sassiccione, quando io voglio sassiccione, o di maiale o di pollo, me lo fa davanti, capito? Me lo fa davanti, gli hamburger me li fa davanti. Lì è tutta roba confezionata, sì, che fa il macellaio per carità, però io non lo so di quanti giorni è, di quanti giorni non è, no, assolutamente. Vai Anto. Bene, no, io il pollo lo prendo dall'estero, alla casa del cavallo qui da già, a casa, adesso la carne, mando un pochino, me lo da un mio cliente di Orchieri, che lui ha l'allevamento, ma c'è, quindi quando mi serve qualche cosa scendo, me ne prendo un po' di chili, poi ce la sacco di lì. C'è, ma perché lei da anche la macelleria in via Grazia Deledda da Giacomo? Io vado da Giacomo, non so se si chiama Ledda, non so come si chiama Secchi. Ah, la Giacomo Secchi, no, qua c'è Torre Ledda, c'è anche il box al mercato, c'è carne buona, ma c'è la ogni lunedì, quindi infatti lunedì no, c'è quasi niente. Noi c'è sempre, non è lunedì perché intanto non te ne devo guardare di radio da abbassare, vieni martedì, da martedì in poi, capito? Oppure da Cuscio, insomma, che lo conosco lo stesso, ma carne dello spigno non è un pareggio, tu lascia perdere, vai Antonè. Capa, no, io lo spigno, qualche volta mi capita di pigliare, ma quando scendo giù in via Verona, piccia carne buona anche Mura, non costa neanche molto, però la maggior parte la piglio la Cobec, mi viene molto meglio è morbida morbida e diciamo sapore, capito? Infatti Tommy quando doveva fettinare il cavallo manco la vera in casa, non ne vuole più carne di quella confezionata che vendono per i cani, no? Vuole carne di cavallo, fettine di maiale, si mangia adesso, qualche volta tortellini, se no sta anche 3-4 giorni non si tocca un cazzo, non ne frega niente, passano ne vuole. Prima si mangiava tutto, anche la minestrina, ma è diventato vizioso. Il cane è così. No, io grazie a Dio il cane già non mangia poco. Mangia molto, molta roba asciutta e pasta. Mi piace un bel, la pasta in bianco naturalmente, con un cucchiaino di olio crudo e un cucchiaino di formaggio e basta. Se no mangia le sue crocchette di pollo, di pesce, di verdura, non di loro spizzi, cioè io compro un sacco da 25 lì a Planet di Via Luca di Abruzzo, poi scendo a Pradanietta, se no i rugani non funziona, ci vuole roba buona, per quelle loro spine fanno venire dermatite, fanno venire vomito e sono cani via. Oh, il mio non è che vomita, non te ne mangia proprio, te lo fa diventare muffa, però non te ne mangia. Ieri sera ho fatto gli spaghetti alla carbonara, prima non li ha toccati, ho visto ieri sera ha fatto sparire anche il piatto, perché gli ho messo tutta la pancetta, capito? E gli andava a farmi a mangiare, ti preoccupa, no, ma il mio non può mangiare queste cose, c'è uovo, la cipolla, la pancetta, no, non la può mangiare proprio. Il tuo sì, ma il mio no, il mio deve mangiare le cose giuste perché altrimenti le fa male, capito? Oh, via, via. Questo c'è uscito il tuo a lavorare. Sì, no, stasera praticamente, quasi non ho lavorato niente, le due, sono andato via con il mondo della vendita. Una caria, secondo me non era nulla, però mi faceva male. E sempre uccidi, sì. E io li ho curati anni fa, e grazie a Dio stanno andando bene, mia moglie lo stesso, e i detti sono molto importanti. Va bene, cazzo, va, mi prende la biocco, ma dimmi Duca, mi sto addormentando, c'è la luce di cortesia accesa come in stanza, bisogna che accendo la luce grande perché altrimenti mi addormento, cazzo. Non ho riposato niente, dopo pranzo io ho sempre quella penichella di un'ora, 9:30, invece abbiamo un pranzato tardi, perché mio figlio è arrivato tardi, da lavoro, poi da lavoro, non era lavoro che figlio, a fare la spesa. Poi alle 4 ho appuntamento con Luca, quindi ero così seduto al divano per la televisione, allora mi prendo la Biocco. E mi dispiace perché stasera c'è la partita, cazzo, c'è Real Madrid Inter, me la devo guardare a canale 5. Vabbè, ultimamente non lo sta facendo in televisione, c'è da per guardare qualche cosa che vede il sonno. La stessa cosa a me. Sì, ero poco tanto che la notte, io dopo cena, che ora sono le 10:30, mi siedo a guardare, infatti ieri ero tutta la sera, sino alle 11 ero in radio, ma poi che ero qua in stanza che stavo facendo alcuni lavori, alcune cose, spostamento, ballo in radio, che appunto ho tolto le radio che dovevano partire, anzi che sono già partite, e quindi ero qua. Ma quando sono nel salone, che mi siedo a guardare la TV, la buona serie di Desi, mi trovo. E lo fa anche a me, però mi dicendo nel divano di cucina e rimetto. Me ne vado in sala e mi dico come ti fa vedere. Tu dico a letto, lui non te lo da qui a lì. E cos'è boutique? Non so cosa dire, c'è la vecchiaia. La stanchezza di non fare niente, non so cosa dire. Vai Antonio. La vecchiaia, fatti i pensieri, capito? Quello è il problema. Io stamattina mi ha svegliato il cane, mi ha svegliato alle 7:30. Ha incominciato a togliermi le lenzuola, poi il copriletto e poi lui è cominciato cazzo a lavarmi la faccia e a mettersi a bagliare. Hai giocato a fare la cosa, vai a fanco, ci ho buttato a terra e tu mi senti, se rivedi ti tiro la bottiglia a testa. Mi ha lasciato in pace quasi un paio d'ore. Poi l'uomo, cazzo, poi è cominciato il telefono, cazzo, prima una telefonata, poi l'altra, poi il citofono, e va a far culo, ho preso e mi sono alzato, anche perché stavo aumentando, penso mezzanotte e mezza, tanto cosa fai, non sono uscito in supporto ieri. Stai sempre girando a canale, più che Covid non senti, cazzo. Allora, mi sembra di essere nel manicomio che mi stanno lavando il cervello, cazzo. Tutti i giorni sempre le stesse cose, cazzo. Poi mi sono guardato quel cavolo di cosa di report, che in pratica il Covid lo sapevo già da prima, che era a gennaio, che avevano fatto già un piano per diminuire i contagi, che in pratica lo Stato italiano ha preso e l'ha secretato, perché dice che non serviva a nulla. E invece quello va previsto tutto, in pratica ha previsto 40.000 morti in tutto l'arco dell'anno, se non stavamo attenti. Invece hanno rimediato i dossier, capito, l'hanno messo in un cassetto secretato e sono riuscito ad averlo con il report. E l'hanno fatto vedere ieri, poi hanno intervistato eccetera eccetera, gli ho detto me, lo Stato italiano, quindi ne stavo un cazzo di quelli che muoiono. No, ho guardato una volta, c'erano delle cose che non mi interessavano, ho guardato. Va, tu gira dall'uno fino a tutto, fa vedere i gomiti, gomiti. Dici di me a gruppo i gomiti, per carità. Vai, entro, va. Cosa? Vabbè, perché adesso qualsiasi canale che accendi, che guardi, qualsiasi radio accendi, qualsiasi trasmissione stai guardando, tutto di quello. È giusto che sia le persone che giusto che siano informate, ma insomma sta a credere un capo. Ma che vada a cagare, scusa di tanto. E continuano, sì, gli aggiornamenti va bene, che dicano che fanno, ma tutti che continui, tutti i santi lì. Non serve proprio a niente. Allora, hai visto lo scandalo in quell'ospedale, mi sembra a Palermo, che avevano dichiarato non so quante persone in terapia intensiva, invece il reparto era vioso. Allora, adesso vogliono aprire un altro ospedale a Cagliari che era chiuso proprio per i malati di Covid. Però, ma perché non l'hai aperto da prima? Perché non ti sei organizzato prima? Perché non ti sei preparato prima? Capito? E questa è la rottura di balle. Il mullato sembrava che tutto fosse tranquillo, si dovevano preparare, dovevano prevenire. Ma loro hanno detto comunque, io ho letto alcune cose, ma dice che comunque la storia si sapeva, le date dell'occhiamo li avevano già programmate da aprile. Già programmato tutto, sembra tutto già pronto, tu capito? Ecco perché la gente sta iniziando a non crederci più. Ma la beffa di oggi, stavo parlando canale 5, è arrivata una donna grande, insomma, forse una settantina d'anni, 68, 70 anni, al pronto soccorso di una città, adesso non mi ricordo dove, la verità, che aveva un dolore al petto. Un dolore al petto, nausea, capogiro, vomiti e bimbubà. E le hanno detto che era stress, che era un sintomo di stress, capito? Dopo 24 ore è morta. Hanno detto che è morta di Covid. Ma lì c'è un infarto, ma cosa gatto gli dice? Cazzo, ma tutti di Covid avrei morito. Infatti adesso perché loro dice, perché li continuano, che tutte le volte che muore un paziente di Covid all'ospedale danno 800 euro a persona, quindi a loro conviene chiaramente dire che è morto di Covid. Non c'è poi, c'è cazzo, c'è arrivata con un forte dolore al petto, ok, questa nausea, questo mal di testa, eccetera, che ce l'hai fatto? Dovevi subito, cazzo, metterla in terapia intensiva, cos'hai detto che era uno stress, stressato di vecchia nelle balle. Ma poi adesso anche i medici di famiglia, non ti puoi andare, perché se lo chiami poco a poco, guarda, mi sento strano, ho le vertigini, ho le gambe molle, non ci venire! Ci conosciamo da bambini, quando dico una cosa del genere, ma dobbiamo chiamare dove sono, ho le gambe molle, mi sento strano. Non ci venire! E figurati, io vecchio, a Chico Gervasi, siamo amici da un sacco di tempo. Ci vediamo spesso anche qua perché abita vicino a casa mio cognato in via Pietro Nenni, sono andato a prendere la voce.